un argomento stupidino, di cui ovviamente si sono occupati tutti con un entusiasmo e una solerzia con cui dei problemi seri non si occupa mai nessuno, è rappresentato dal clamoroso caso di Maurizio Emanuela, studenti dell'Istituto Tecnico di Potenza, sospesi per essersi sempre tenuti per mano in presenza del preside professor Riccardo Latella. O forse non si tenevano per mano, ma avevano vedita che si intrecciavano in una stretta molto forte, o magari intrecciarsi non erano le dita, ma secondo un'altra fonte le braccia, che è certamente una cosa molto più grave. E può darsi persino che, come ha riferito ai cronisti una certa Bidella, quel mattino il ragazzo, uscendo da scuola, ha fatto un brutto gesto al preside. Ma insomma, l'episodio è un episodio che difficilmente giustifica tutto il cancan masmediologico che l'ha accompagnato. Immagino che il primo a essersi stupito sia proprio il preside, che si è trovato improvvisamente nei guai fino al collo, oggetto di ispezioni ministeriali e censure del provveditorato, e dichiarazioni in sua difesa che più cretine non potrebbero essere. Eppure probabilmente si consideravano una botte di ferro, non solo perché in base alla normativa vigente il potere di comminare provvedimenti disciplinari fino a 5 giorni di sospensione è completamente e insindacabilmente in mano sue, ma perché, come mi è sembrato di capire, l'infrazione dei due giovinetti non consisteva tanto nel tenersi per mano con le dita più o meno intrecciate, ma nel non avere obbedito alla sua intimazione di staccarsi. E su questo piano potrebbe benissimo trovare qualcuno che s'azzardi a dargli timidamente ragione, ma tant'è. E per almeno 2 giorni i giornali sono stati pieni di commenti in merito, sono intervenute le autorità, gli studenti sono scesi in manifestazione sotto gli obiettivi puntati delle telecamere e i principali esperti in trasgressione sono stati chiamati a dire la loro. Io raccomando agli studiosi il parere di Lidia Ravera, autrice a suo tempo di Polci con le ali, che ha definito la vicenda una cosa insulsa, intrisa di melassa, dimostrando che i trasgressori di ieri, come sempre, interessano pochissimo le trasgressioni di oggi. Ma questa è un'altra storia. Il fatto è che a me la storia del pensiero di Potenza mi ha riempito di autentica letizia, perché, vedete, capita così di rado vedere qualcuno in posizione di potere che agisce da autentico cretino, che quando succede è sempre una festa dello spirito. E poi naturalmente il fatto che al potere ci siano dei cretini è una delle nostre poche speranze di libertà e di un futuro sia pur remoto trionfo. Il potere notoriamente ha 2 volti. Ha quello ambiguo e illusorio della ragionevolezza e dell'adeguamento alle esigenze dei tempi e quello sostanzioso dell'imbecillità a scatto automatico. Se da entrambi dobbiamo difenderci, è questa seconda valenza quella che più spesso fa cadere i potenti in contraddizione, soprattutto i potenti di serie B, i piccoli potenti, potenti in piccola scala come i presidi, appunto, a cui difficilmente si potrebbe chiedere la raffinatezza intellettuale necessaria per gestire la propria funzione con la sottigliezza di un Fouché, e se l'avessero farebbero un altro mestiere. Qual è stato secondo voi l'errore del preside di Potenza? Quello di non essersi reso conto di quanto è facile finire sotto gli occhi di tutti in tempi di comunicazione di massa, quando si va contro una qualsiasi espressione della mitologia dominante. E i media di massa, poco si curano dei valori e degli ideali, e non sanno distinguere i problemi davvero seri da quelli che non contano niente, ma badano molto ai comportamenti e agli atteggiamenti, soprattutto di tipo generazionale. Il 68, se ricordate, chi lo ricorda, il 68 è stato preannunciato da legioni di presidi che nei loro istituti si opponevano con energia che gli studenti portassero i capelli lunghi e che le studentesse indossassero la minigonna, e guardate come è andata a finire. Non dico che adesso la procedura debba ripetersi da capo, ma la scuola resta, con tutte le sue magagne, uno dei meccanismi più complicati di integrazione sociale e di omologazione ideologica, anche se non è l'unico né il più importante, ma questo i presidi non possono capirlo. E come tale va trattata con un minimo di delicatezza. Dall'ispezione del ministero il professor Latella sarà sicuramente assolto, perché tra burocrati ci si dà sempre una mano, ma un po' di sudori freddi se li merita. E sempre a proposito di cretini, è sempre a proposito di cretini, lasciatemi spendere solo due parole sullo speriamo mancato padre di Torino, quello che si è tanto adoperato per impedire che la sua fidanzata abortisse. Spero concordiate con me che si tratta di un cretino pericoloso, non tanto per il tipo di problema che ha suscitato, che ovviamente ha una sua serietà. È evidente che c'è una certa contraddizione tra il fatto che la procreazione richieda comunque due soggetti e poi tutto relativo peso biologico e in buona parte sociale ricada sul soggetto femminile, e non ci se ne può liberare dicendo semplicemente che è una contraddizione naturale. In tema di aborto, la soluzione femminista classica, quella che demanda alla donna la decisione finale, probabilmente è la più sensata e quindi la più giusta, ma può lasciare qualche margine di insoddisfazione. E come di tutto se ne può sempre discutere. Il tipo è pericoloso per come si è mosso, perché ammettiamo pure che sia convinto, che sia in buona fede, diamo pure per buona la sua angoscia esistenziale, e cosa fa trovandosi di fronte a un fior di problema come questo? Lo affronta con le armi del dialogo interpersonale? E una volta fallite quelle, visto che la questione ha una sua dimensione pubblica e il problema è regolato per legge e sottoposto a una normativa, adisce ad apposite istanze, con discrezione e riservatezza, con la discrezione di chi comunque affronta una faccenda essenziale nella vita di un altro? Ma che? Il cretino scrive a Scalfaro e a Wojtyła e presumibilmente emette un comunicato stampa, perché diversamente non vedo come la notizia potrebbe essere arrivata ai giornali, non essendo usi gli uffici stampa del Quirinale del Vaticano a rendere pubbliche le lettere di esaltati che sicuramente gli arrivano tutti i giorni. Scalfaro e Wojtyła, e cosa c'entrano loro? Sono due figure pubbliche, sono protagonisti eccellenti di quella specie di sociodramma in cui i mezzi di comunicazione hanno trasformato la società in cui viviamo. Perché qualsiasi società è una cosa complessa e difficile, intessuta di rapporti e di problemi, ma le immagini che ne circolano, per forza di cose, sono semplificate. Sono ridotte i problemi, nell'immaginario collettivo spesso sono incarnati da poche figure caratteristiche. Il cretino di Torino è pericoloso perché è incapace di muoversi sul piano dei rapporti quotidiani concreti, incapace di rapportarsi persino con la donna con cui ha avuto l'occasione di concepire un figlio, poveretta lei, ha capito l'andazzo e ha colto subito l'occasione di proiettarsi sul piano simbolico carismatico della comunicazione, un piano su cui non è necessaria l'intelligenza per muoversi e per vincere. Forse poi completamente cretino non è. Comunque, come il compianto ispettore Rocco, un errore lo ha commesso anche lui. Scalfaro e Wojtyła probabilmente non lo aiuteranno. Sicuramente ne sarebbero felici. Sicuramente non vedono l'ora, sarebbero pronti a fare pesare tutta la loro autorità per pur di conculcare la decisione di una povera ragazza. Ma probabilmente motivi di opportunità e timore di polemiche glielo impediranno. A un certo livello si ha un po' le mani legate. Il mancato padre, lo speriamo mancato padre, ha sbagliato padrini. Se avesse voluto davvero vincere, avrebbe dovuto rivolgersi a Sgarbi.